Ha scritto un altro pezzo triste, con la mano cerco il blister, lascio a casa le conquiste, la vita non è Walt Disney. No, non far entrare qua dietro le cubiste, mi sa che me ne vado a letto mister. Fuori già, non mi muovo, vedo un po' desaturato. Colore poco, baby, scotto come il fuoco. Sono pieno, sono vuoto. Faccio l'Atlantico a nuoto, dice Davide. Ora uno stronzo, non vuole fare le foto. Non sanno degli sgarri sul dorso, né dei pensieri in cui muoio. Che siamo puri, fiori di loto. Stringiamo la mano al niente, abbracciamo l'ignoto. Stare a fumare per tutta la sera. Dici dai scrivi ne vale la pena. Oltre ogni dubbio, oltre ogni scena. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera. La scatola nera, la scatola nera. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera. La scatola nera, la scatola nera. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera. Prendi la scatola nera. Dimmi che cosa si cela in quel filo di angoscia in cui cado la sera. Dimmi una cosa sincera. No, non sono triste, solo che a volte entro nelle fisse. Paranoie miste, se non ci fosse, se poi finisse. Scusami, forse ho fumato troppo, ho lo sguardo nel vuoto. Pessimista nell'osso, ma cambio, ti faccio un torto. Che diavolo, leggi in volto ed è chiaro tutto il contrario. Quando giurlo che ti odio e non ti sopporto. Forse in fondo non ti merito e basta. Forse in fondo la mia vita è una farsa. Campione mondiale nel mettermi in dubbio ogni volta. A volte mi rimbalza, a volte cazzo non passa. A volte cazzo non passa. Devo essere più forte per te. Devo essere più forte per tre. Sono termine portata al beat back, don't worry al beat back. Tornerò sì dal futuro come John Tito. Su un Q4 Hydro, non brucerò un litro. Verrò a prenderti come in un film di Tarantino. No degli unici a colore, il mondo scolorito. Stare a fumare per tutta la sera. Dici dai scrivi ne vale la pena. Oltre ogni dubbio, oltre ogni scena. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera. La scatola nera, la scatola nera. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera. La scatola nera, la scatola nera. Apri il mio cuore, prendi la scatola nera.